Paro, Pose e la sua gente. Politicalmente parlando, va così. Quest'Italia che è forma di stivale, fa soltanto scena perché non sa camminare. Dove siamo arrivati se non siamo neanche partiti? Zero soluzioni ma 56 partiti. I governi uniti, uno slogan che confonde. In un sistema in cui l'unica intelligenza adatta alle bombe. Tombe, in più che per ignoranza vedrai. C'è chi non guarda più il cielo fuori perché in casa ha Sky. Dicono di sapere, aver studiato in scuole rigide. Giocano a fare record in tasca al piccolo principe. Destra, sinistra, da votare sopra il foglio. Poi brindano tutti con bicchieri di petrolio. Guerra ciò che vogliono tra poveri e sceicchi. Rubano ciò che hanno sfruttando i loro conflitti. Espongono a Montecitorio con i loro testi. Se non basta quella stanza diventa un incontro di wrestling. Hip hop, politic, non presenta Celentano, rappresenta Pose MC. Hip hop, politic, per ogni suddito italiano rappresenta Paro MC. Hip hop, politic, non presenta Celentano, rappresenta Pose MC. Hip hop, politic, per ogni suddito italiano rappresenta Paro MC. Sì. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Sono le mie mani quando fanno sulla mista. Oppure quando sfoglio una rivista e mi danno del trepista. Sai, sono il primo della lista. Writer del quartiere messo male, interista. No, interinale, stagionale. Restare a stagionare in attesa di votare. Chi? Dai posa lascia stare. Qui ci riempono di pare. E Paro spende, loro aprono gli occhi. E 25.000 euro al dì ti sorprende. E come si fa? Basta fottere la gente, parlare intero e poi rifottere la gente in modo cosciente, senza pudori e la politica che mente. Signore e signori, pasta e maccheroni. Questo è Pop Politic, al mic Prodi e Berlusconi. Hip Hop Politic, non presenta Celentano, rappresenta Pose MC. Hip hop, politic, per ogni suddito italiano rappresenta Paro MC. Hip hop, politic, non presenta Celentano, rappresenta Pose MC. Hip hop, politic, per ogni suddito italiano rappresenta Paro MC. Ehi, yo, ok, sei, oh. La gente povera che ha fame vota il mortadella. Bossi nel mare di Sicilia dopo aver mangiato una paella. Nella scheda elettorale ho capito che se metto il nome di mia nonna morta vale. Bevo ancora latte, ho visto rosa, lusso gli erbolino. Da quel momento in poi non sono stato più bambino. Adesso bevo vino, spingo come un bovino. E il Parlamento vede bene come capo sbirulino. Si lamento delle perdite, l'Italia del contante. Mangiano di tutto, non pagano neanche il ristorante. Quante giustificazioni, uomini senza palle. Ma rimanete tutti coglioni. Ma facciamo i seri, noi risultiamo come numeri. Fin troppo sudditi di imperi. E sai com'è? A volte scleri. Quando capisci di essere manovrato solo da schemi. Da scemi. Hip hop, politic, non presenta Celentano, rappresenta Pose MC. Hip hop, politic, per ogni suddito italiano rappresenta Paro MC. Hip hop, politic, non presenta Celentano, rappresenta Pose MC. Hip hop, politic, per ogni suddito italiano rappresenta Paro MC.